facile, lo so, però è metà musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. Programma col cuore di un bambino e il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace, che spera, veloce per più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che mace, che spera, veloce per più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno a tutti. Negrelli, lascia bene. In Sicilia femmine sono come lupare. Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Vabbè. E sarebbe un programma radiofonico, ma non mi piace chiamarlo così perché non ha nulla di programmato, quindi non può essere un programma, e se non è programmato, cacchio, il programma è. Sì. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Mi stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino? Devi lasciar prendere dal passo e imboccare quel sentiero che ti indica il ritmo. Il ritmo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Mica noccioline. Bravo. Oh, questo è il cammino di un bravo bambino. Gigi D'Agostino. C'è sulle mani un attimino. A tempo. A tempo. A tempo. A tempo. A tempo. A tempo. Ogni giorno, ore 18. 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi. Di Gigi D'Agostino. Non c'è età per lasciarsi trasportare dal lento e violento. Se te lo senti, questo è il momento. Questo è il momento. Questo è il momento. Fallo stare un po' zitto, va. Questo è il momento. Basta! Ecco. Appiccia un po' sta musica. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Sento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Dov'è il vocalist? Eccomi. Lavora. Non giocare sul comodino. Alla console c'è Gigi D'Agostino. C'è Gigi D'Agostino. C'è Gigi D'Agostino. Scrivete una S. SMS. SMS. 3, 4, 6, 7, 6, 2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Together, make it work. We can.

ci vediamo lì. La spiegazione ve la do adesso, mentre sto qui, ma poi noi ci vediamo lì. Con le musiche e le storie suonate da me, vieni anche te. Per maggiori informazioni, clicca sui tasti www.gigidagostino.com pom pom parom parom pom, oppure www.gigidag.com ripom parom parom pom. Vai nel forum e comincia a cercare. Se non trovi, ti fai aiutare. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ci gira intorno. Ogni giorno ci gira intorno. M2O. Musica allo stato puro. Che mondo è? Che storia è? A nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. And talk to you. A little help from the moon. Only a few words I will say. God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart. I stumble over your smile. I'm taking heart to become what you want for your life. Shine on you. Cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo, fratello. A stare fermi. La fa chi balla. Chi non si muove è una palla. M2O. Doha, ma togli e si estama. Togli e si estama. We'll be right back.

cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Non torno più. A volte gira intorno a me. Lo so perché lei chiama a me. Perché anche lei non sa se me. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Ci porta su. Saluta tanto, tanto.